Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. Le profezie Sibillarum di Orlando Di Lasso. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Ieri abbiamo parlato della Missa Pape Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina e oggi parliamo del suo grande contemporaneo, amico e rivale Orlando Di Lasso, Roland de Lassus, che è forse l'ultimo dei grandi musicisti fiamminghi. Orlando Di Lasso nasce a Mons, oggi Belgio, quasi al confine con la Francia, intorno al 1530 e muore lo stesso anno di Palestrina, 1594. Lasso, come tanti dei suoi contemporanei, si muove, viaggia, andrà in Italia giovanissimo come cantore, si erano già accorti del suo grande talento, e in Italia andrà, pensate, a Mantova, a Palermo, a Milano, a Napoli. Napoli molto importante, perché a Napoli lui scopre qualcosa e scriverà dei brani addirittura, immaginate, in dialetto napoletano, le Villanelle. Poi andrà a Roma, e a Roma, giovanissimo, forse appena poco più che ventenne, sarà addirittura maestro di cappello a San Giovanni in Laterano, una carica che poi più tardi sarà del Palestrina. Lasso passa tutta la seconda metà della vita, da 1559, a Monaco di Baviera, dove morirà appunto nel 1594. Lasso è uno dei musicisti più divertenti, più versatili e soprattutto più prolifici della storia della musica. Voi pensate che Orlando Di Lasso ci ha lasciato quasi 800 mottetti, 70 messe, più di 100 magnificat e poi delle passioni, fra i primi esempi di passioni polifoniche, ma sentite l'elenco delle sue composizioni profane. Abbiamo delle villanelle o canzoni villanesche alla napoletana, in dialetto napoletano, abbiamo dei madrigali italiani, abbiamo delle chanson francesi, abbiamo dei lieder, cioè delle canzoni polifoniche scritte in tedesco, il che vuol dire, se ci pensate, che Orlando Di Lasso scrive musica in almeno 5 lingue. Aspetto singolarissimo e direi senza dubbio un indice della grande curiosità, della grande versatilità di questo musicista. Un musicista che, in totale contrasto con Palestrina, che vive sempre a Roma, è veramente cosmopolita e soprattutto un poliglotta. Ci ha lasciato alcune lettere divertentissime, spiritosissime, in cui parla in 3-4 lingue differenti. Talento precocissimo. Cosa scegliere per parlare dell'opera di un musicista di questo genere? Beh, una delle sue opere più singolari. Ieri abbiamo parlato di una messa e oggi parliamo di una raccolta di mottetti, ma di mottetti particolarissimi. Quindi continuiamo l'esplorazione alternata di questi due generi, come in Josquin, una messa e dei mottetti. Ieri una messa di Palestrina, oggi dei mottetti scritti probabilmente nello stesso periodo della Missa a Pape Marcelli, e sono una singolarissima opera che si intitola Le profezie Sibillarum, ossia le profezie delle Sibille. Vi dicevo, composte con ogni probabilità alla fine degli anni 50 del 500. E cosa c'è di singolare? Beh, prima di tutto il fatto che il testo, le Sibille naturalmente le conosciamo dalla tradizione romana, da Virgilio in particolare, bene, invece il testo di queste profezie Sibillarum è un testo profetico cristiano. Quindi c'è un singolarissimo miscuglio di cristianesimo e di paganesimo in questi testi. Ma ci sono altri miscugli singolari. Tanto in alcuni istanti di questi brani Orlando Di Lasso usa uno stile che ha un carattere decisamente, chiaramente popolare. Sembra qualcosa delle villanelle, addirittura forse delle frottole con cui abbiamo concluso le puntate su Josquin, quindi con questo stile molto più ritmico, omoritmico. E poi c'è un altro aspetto singolare, ossia lo stile musicale di queste profezie Sibillarum è assolutamente insolito, è uno stile cromatico. Cromatico è una parola tecnica, letteralmente vuol dire colorato, e si usa il termine cromatico per descrivere questo stile di musica perché molto spesso le alterazioni, cioè quelle che oggi noi chiamiamo i diesis o i bemolli, venivano scritte sui manoscritti in un colore differente, quindi erano veramente colorate le alterazioni. E per farvi capire cos'è il cromatismo, vi accenno direttamente l'inizio del prologo delle profezie Sibillarum, che sono a 4 voci, che suona così. Thank you. sentite questi stranissimi scivolamenti fra le note. Noi finora abbiamo sentito esempi di musica cinquecentesca in Josquin, in Palestrina, assolutamente diatonica. Non ci sono mai alterazioni singolari che danno questa sensazione. Sentite questo spostarsi di queste triadi, di questi, chiamiamoli accordi per intenderci oggi. Questo è il cromatismo, che naturalmente, potete immaginare, provocava intanto uno shock ascoltare questa musica, di una modernità straordinaria. Sentirete alla fine di questo ciclo di lezioni, parleremo di un musicista che proprio è famoso per il suo cromatismo, che è Gesualdo da Venosa. Bene, Gesualdo sicuramente conosceva e ha studiato a fondo il precedente delle Profezie Sibillarum di Orlando di Lasso. Immaginate quanto era difficile intonare questa musica per un coro a cappella. Sentiremo un'esecuzione in cui i cantanti sono accompagnati dal liuto che li aiuta nell'intonazione. E soprattutto, devo scusarmi, ho fatto questi esempi al pianoforte. E naturalmente il sistema di intonazione che si usava in questo periodo era molto differente, quindi probabilmente questi intervalli così singolari suonavano molto più espressivi. Il pianoforte finisce per appiattire un po', per realizzare letteralmente in bianco e nero questa musica. Ebbene, il cromatismo, che in questo periodo ha un momento di sviluppo, alla metà del Cinquecento. Prima era pochissimo usato e poi, lo vedremo, attraversa un po' così nascostamente la storia della musica, emergendo in casi appunto di musicisti come Gesualdo, in alcuni momenti molto espressivi di certi madrigali. Pensiamo a Monteverdi, se ricordate quella serie che abbiamo fatto qualche mese fa insieme. C'è qualcosa di singolare, no? Il genere cromatico era uno dei generi della musica greca. La musica greca conosceva tre generi, essenzialmente, che erano il genere diatonico, il genere cromatico per l'appunto e poi il genere enarmonico molto particolare che aveva i quarti di tono. Quindi probabilmente in questa operazione di Orlando di Lasso, che non a caso si occupa delle sibille ed ha un testo che unisce cristianesimo e paganesimo, presente e passato, c'è anche l'idea di recuperare il genere cromatico dei greci. E in questo senso anche il riferirsi alle sibille, che però hanno, cioè i testi che le sibille cantano sono, sentite le sibille che ci parlano dei misteri della nostra salvezza, dice un testo, no? La sibilla persica canterà, nato da una vergine, si siederà sul dorso di un asino, un principe benigno che solo potrà portare la redenzione a coloro che pregano. Quindi, sentite, no? Sono delle profezie, naturalmente, delle profezie cristiane, però affidate alle sibille. E questo aspetto, cioè un ulteriore aspetto di questo stranissimo sincretismo culturale che evidentemente in questo periodo era forte. Voi pensate a quanti pittori hanno rappresentato le sibille. L'esempio più famoso in assoluto è la Cappella Sistina, dove appunto abbiamo in una particolare fascia della Sistina ci sono i profeti e le sibille. Come se le sibille fossero l'equivalente pagano dei profeti cristiani, questa sorta di singolare miscuglio. A Roma Raffaello anche realizza un famoso affresco con le sibille a Santa Maria della Pace. Ecco, in questo senso la raccolta delle profezie sibillarum è un po' una sorta di summa di tante tendenze umanistiche. Questa esplorazione del passato, questa volontà di recuperare contenuti cristiani nel paganesimo, nell'antichità, nella latinità e nella grecità in particolare. Ma direi che per cogliere appieno la novità, la particolarità che trovo assolutamente formidabile di questa raccolta di Orlando di Lasso, sentiamo direttamente il prologo delle profezie sibillarum. Le profezie sono 12 sibille e poi c'è un carmina cromatico che introduce e il quale nel testo ci dice: i canti che sentirete qui realizzati nel modo cromatico sono quelli attraverso i quali le sibille, le antiche sibille con intrepida bocca cantano per 12 volte del mistero della nostra salvezza. Ascoltate carmina cromatico. Cromatico. Cromatico. Penso che questo ascolto già di per sé sia sufficiente a mostrarci la singolarità incredibile di questa raccolta. Cioè, nulla che abbiamo sentito fino a questo momento, ma vi assicuro, pochissime cose nel corso del Cinquecento suonano in questo modo. E in effetti questa raccolta che Lasso inviava a signori, a potenti, lui era un musicista pieno di relazioni, famosissimo, degli intellettuali più famosi del suo tempo, provocò delle reazioni sconcertate, la gente era veramente sbalordita, ammiravano naturalmente questa sapienza armonica, questa ricchezza, ed erano comunque affascinati, incuriositi da questo stile. Voi immaginate che in questo periodo uno stile così esoterico, così particolare, veniva chiamato con un'espressione specifica, e questa espressione era musica riservata, cioè la musica per gli iniziati, musica appunto che talmente complessa da decifrare, i teorici dell'armonia molto spesso non toccano i cromatismi, non arrivano a definire qui di cosa stiamo parlando, in che modi siamo, anche perché probabilmente, come vi dicevo, questo fa parte di un'esplorazione umanistica di Orlando di Lasso, che cerca addirittura di recuperare i modi greci, il genus chromaticus della musica greca. Ma vogliamo sentire che cosa ci dicono queste sibille. La prima sibilla che ci si presenta, sempre con questo singolarissimo stile cromatico, è la sibilla persica. E la sibilla persica è appunto quella che ci dice: nato da una vergine, siederà sul dorso di un asino un principe benigno che solo può portarci la redenzione a noi che preghiamo. E dopodiché il testo continua dicendo: in questi giorni molti multa ferent, ossia molti dovranno sopportare molte cose. E c'è qualcosa di singolare proprio nel modo in cui Orlando di Lasso realizza questo testo. Il pezzo comincia in maniera molto rilassata, molto solenne ancora una volta. Ecco i cromatismi. E poi qui abbiamo iocundus princeps, un principe benigno, un principe giocondo, e improvvisamente sentirete che le voci cominciano. Si calmano di nuovo, le voci che si imitano in questa sorta di piccoli movimenti gioiosi, quasi ecclesiastici, degli jubilus letteralmente. Ma il punto più interessante è il multi multa ferent, dove improvvisamente il ritmo diventa un ritmo di danza. Diventa un curioso ritmo danzante. Una danza di quest'epoca si chiamava moresca e ha un ritmo di questo genere. Ma ascoltiamo la nostra sibilla persica. Attenti a iocundus princeps, eccolo. Multi multa ferent. singolarissimo. Ho sentito anche questo istante danzante che si inserisce all'interno di questo tessuto, in realtà così più calmo, così più solenne, no? E questo è uno degli aspetti più singolari e anche più impressionanti di questo miscuglio di stili, di influenze, miscuglio di visioni, appunto, una visione umanistica contemporanea, una visione che si rivolge invece verso l'antico, l'idea che le sibille profetizzino invece il cristianesimo. C'è un'altra sibilla, la sibilla Cimmeria, la cui profezia si rivolge proprio alla natività, letteralmente, uno dei pezzi più belli, più singolari. Lei canta appunto: una santa vergine lo allatterà, e più avanti parla proprio dei magi che arrivano e che portano i doni, portano la mirra, portano l'oro e l'incenso. E sentite per esempio in che modo abbiamo questo Eterne Regem. Abbiamo Sacra Virgo, cibavit lacte suo, sentite. Sentite, ancora una volta questo improvviso ritmo di danza che entra proprio su Sacra Virgo cibavit lacte suo, quindi questo gesto più materno, forse più umano, che si colora di questi accenti danzanti. E poi dovete sentire cosa succede nel momento in cui arrivano i magi. Puero mirram aurum Tura Sabea, ossia un incenso di Sabea. Questo è un passaggio veramente impressionante. Impressionante questo incenso, come se proprio questi doni in qualche modo si illuminassero improvvisamente di qualcosa di misterioso, il senso del mistero di questa adorazione. Sentiamo la sibilla Cimmeria. Sacra Virgo. E adesso invece continuo con un ritmo normale. Magi. Mirra. Oro. Incenso, sentite? Trovo dei pezzi veramente straordinari, emozionanti, tra l'altro in questo continuo cambio di tono. La sibilla successiva, la sibilla Samia, per esempio, comincia cantando, dice: ecco il giorno felice che è destinato a sollevare le tenebre nere. Ecce dies nigras quae tollet leta tenebras. E il pezzo comincia ancora una volta con questo ecce. E poi invece abbiamo. Quindi quindi questo improvviso ritmo di danza che solleva letteralmente, che fa sparire le tenebre. E dopodiché abbiamo, parla dei nodosi volumi, gli ampi volumi, degli scritti dedicati dai profeti al Salvatore, e qui abbiamo addirittura un effetto di canone in questi i libri che si aprono e che rivelano. Con le voci che si inseguono ritmicamente. Questo è un altro brano assolutamente impressionante. Più avanti abbiamo degli istanti imitativi che si introducono improvvisamente all'interno di questo tessuto sempre cromatico, sempre misterioso. Credo che con questo ascolto più o meno terminiamo la puntata. Ascoltiamo la Sibilla Samia e poi dopo ci salutiamo. E qua le tenebre che si sollevano. Sentite in odosa volumina. Era la Sibilla Samia dalle Profezie Sibillarum di Orlando di Lasso, l'opera di cui ci siamo occupati oggi. Non è naturalmente esemplificativa dello stile di Lasso in assoluto, uno dei musicisti più importanti, più prolifici della storia, ma è uno dei suoi brani più profetici, più singolari, che guarda avanti non solo verso Gesualdo alla fine del secolo, ma guarda verso tanti altri musicisti, addirittura direi guarda verso il cromatismo di Richard Wagner alla fine dell'Ottocento. Bene, la prossima settimana cambieremo stile, parleremo di musica profana, vedrete che vi divertirete moltissimo, questo è uno dei periodi in cui i musicisti sono più divertiti a scrivere musica e riescono a comunicarcelo in maniera meravigliosa. Buona giornata da Giovanni Bietti. Radio 3 Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare musiche di Orlando di Lasso dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.